fanno finta di niente. E piano piano tu ciascuno sotto su poveri, manco teddo t'affonnono. L'amici di ieri, miei gigitti dell'altro ieri, chitti che parrano magno, e che picca ascoltano. Credi di non essere solo, non ti guardi anzi, ne parri vantannoli, che sto fosse un lusso di rosa, a città che è da solitudine. L'amicizia è una cosa utile, per giacere a forestale o per fare lo scere. L'amicizia che non sanno chi è, e i malelingui s'affogano. Si dice che l'amici veri sono chitti, solo chitti dell'infanzia, perché l'infanzia l'ha vissuta e non per mia che in ciò stava. I m'amici so, anzi, o m'amico è Berlusconi, l'inventore della televisione. Dall'infanzia io avevo detto che mi dava che pensare. Tutto il resto sono immagini, figure sciane che io non viro, e i valori saggi d'in tempo che noi oggi scanusciamo. I progressi non ce l'hanno fatto, ma tali hanno ne narreri, manca sempre un pozzo di qualche cosa, di qualche altro autovalore.